Guarda, come prima, tu lo sai più di me, Claudio. Mi odio l'Europa io, non è che non mi odio l'Europa, ma immediatamente me la prendo e quindi faccio un anno, tutto lì. Sia con le valvole e sia transistor, discorso è quello. Se dobbiamo fare, spero che non sia di fare con la volta, se non c'è nessun bisogno, la verità. Comunque sia, vabbè, adesso si spette tutto e va a far culo. Per me sta bene così. Tutto sta bene. Guarda, eccolo qua. Chiuso tutto. Perché io mantengo la promessa, quindi, però io non posso stare a baracchino e sentire in tutti i 40 canali che non sento nessuno, il discorso è quello lì. Nel caso così, mi metto il VV2001 nel MK3 con la valvole e si rifà come per una volta, il discorso è quello lì. Non voglio andare a quella storia perché non mi piace, la verità, non mi piace. Ti voglio bene, lo sai Claudio, tu vuoi bene a me, quindi tutto si chiude lì. E mi sta anche bene, la verità. Ci vediamo, ci beviamo una birra, quello che è, tutto a posto. Vai tranquillo, Pioletto, che non è successo niente, lascia stare gli amplificatori dove sono, che quelli fanno male, fanno radiofrequenza. Ci ho detto che è capitato in quei giorni di prove, basta Antonio, io sono tranquillo e sereno, come vedi, sono sempre tranquillo, faccio il mio QSO, anzi adesso mi assento anche un po' dalla radio perché mi sono anche rotto le balle, quindi non ce n'è problema, però ti ripeto, non pensare che l'abbia fatto per male o per darti fastidio o per... capito? Assolutamente, erano solo prove tecniche di trasmissione, che giusto per far capire a qualcuno che Claudio Sparviero esiste ancora, non è morto, esiste sempre, e quando vuole le cose le fa vedere e capire a tutti, come ai vecchi tempi, non ce n'è problema, però il resto rimane sempre dov'è, oramai i tempi sono cambiati. Non c'è più gente per poter metterci a giocare, e poi siamo diventati grandi, non è che si può giocare così facilmente, Antonio, hai capito? Anche perché la corrente costa, e a me mi costa tantissimo perché non ho giocato, lo sapete tutti, ho radio grosse, amplificatori grossi, quindi non mi vale giocare con nessuno, e soprattutto antenne sul tetto, che possono far male senza gli amplificatori, quindi lasciamo i giochi a chi vuole giocare, io non li voglio giocare, non gioco nella parte amatoriale che ho tutte le caratteristiche per poter giocare anche lì, eppure me ne sto per i cazzi miei, non do fastidio a nessuno, figurati se mi metto a dare fastidio a 27, Antonio, dai, chiudiamo questo discorso, se no fa ridere anche a chi sta ascoltando, ok? Vi saluto, buonanotte a tutti e ci sentiamo. Meno male sono entrato a chiarire sta cosa, cazzo, se no ci avevo Antonello contro senza sapere perché, cazzo. Dicia mia a te, Antonello, la prossima volta cercami e parliamone invece di stare a sentire queste stronzate in radio, dai. Ok, come abbiamo sempre fatto. Fabio, ti rimetto il mic, io chiudo perché è già mezzanotte meno un quarto, domani mi devo alzare alle 5, ok? Devo fare un salto ad Urbia e poi rientrare. Ci sentiamo, buonanotte a tutti. Caffa Claudio, buona questa cosa, dai, quando si parla è sempre bello, le cose vanno sempre meglio, quando si trovano le soluzioni così con calma, quando si capiscono le situazioni, perché io non credo che ci sia un'inizia, questo in generale, tranne qualche stronzo, vabbè, quello, ci sono anche patentati, li conosciamo, eccetera, ma linea di massima, io credo sempre nella buona fede di tutti e perciò col dialogo si capisce e si trovano sempre gli accordi. Allora, buon correttivo in tutto, 144, e buon viaggio per domani, buon giro ad Olbia e buon ritorno. Anche io domani andrò ad Olbia, ci sarò qualche giorno per sistemare il tetto. E comunque mi metterò un'antenna così alta che ti schiaccio da Olbia, capito? Bello bello, Spavier. Non pensare di avere predominanza in tutta la Sardegna, non ti preoccupare, Olbia è casa mia, sono anche bello in alto, traliccio di 30 metri, antenna e io sotto col microfono a schiacciarti, ricordatelo. Ma io giro l'antenna come faccio con Stefano e parliamo tu Olbia, io qua. Io parlo con Stefano, dovremmo andare in HF, lui da Olbia, io a Sassari, anche l'altro giorno eravamo in 40 metri. No, Fabio, me ne guarderei bene, prima del fare male Antonello me ne guarderei molto bene, perché Antonello, ti ripeto, ribadisco, ma non perché sia qua lui, perché noi siamo stati sempre vicini di casa, non abbiamo mai avuto un litigio, lui lo sa. Ci siamo sempre divertiti assieme, questo mi dispiace che in questi giorni lui abbia preso colpi, però io non sapevo niente, perché se l'avessi saputo avrei subito rimediato immediatamente, quindi non c'è assolutamente nessun problema, è una persona che io ho sempre rispettato e lui mi ha sempre rispettato, in tutto e per tutto, e quindi non voglio assolutamente che ci siano litigi tra me e lui per la radio, nel modo più assoluto. Se fosse stato qualche altro, forse avrei anche potuto fare diversamente, ma a me qualsiasi cosa Antonello mi chiede, io sono stato sempre al suo gioco, nel senso che abbiamo sempre fatto le cose assieme in radio, non c'è problema. Ci frequentiamo poco di persona perché abbiamo cose diverse, ma in radio abbiamo sempre giocato assieme, quindi mi dispiace se è successo questo, figurati. Poi chiarire è umano, bisogna sempre chiarire, bisogna sempre avere la libertà di parola, la libertà di replica e tutto, e in questo caso me ne scuso io perché sono io che ho sbagliato, ma ti ripeto, ho sbagliato involontariamente perché non sapevo assolutamente che Antonello avesse questo problema, se me l'avesse detto subito, immediatamente avrei rimediato, avrei fatto le prove assieme a lui come abbiamo sempre fatto, invece io mi spostavo, ma non sentendolo io a lui, perché io non lo sento con le radio che ho, c'è stato questo malinteso, ma ci mancherebbe altro. Di nuovo dai, vi saluto, Antonello. Quando ci vediamo ti pago non una, 10 te ne pago di birre, ok? Ciao, ti voglio bene. Non c'è problema, poi mi dici, guarda, facciamo un figlio maschio, che cosa? Una lecca. Va bene, allora facciamo un figlio maschio, dai, Anneke, va bene. Ciao Antonio, stai serena, futidini. La prossima volta però avvisami, ok? Non stare a tenerti le cose, avvisami, vieni dove sono io, cazzo mi stai sfatterando, io sono al canale 10, e allora io mi sposto dove sei tu, tu vieni dove sono io, come abbiamo sempre fatto, le prove le facciamo assieme, ok? Ciao, buonanotte a tutti, dai, vi lascio che è tardi, se no domani mi incanta lo gucco, no, devo andare a fare gli stipendi a Olbia o Fabio. Devo andare a fare i stipendi a Olbia, agli operai di Olbia, e poi sto un paio d'ore con loro, poi me ne rientro. Mi controllo un po' di cose in cantiere e poi me ne rientro. Ciao, buonanotte a tutti. Buonanotte, qua. Dai, dai, avanti per i saluti, poi vediamo che ci è rimasto e facciamo girare. Vai, Antonio. E via, ciao, qua, buonanotte, mi raccomando. Portami lo stipendio anche a me, dato che ci sei, che sono tu dipendente, non c'è problema. A domani. Ciao Antonio, ehi, poveracci, non ci sono mai, sono sempre da soli, meno male c'è un uomo grande che è responsabile di cantiere, anche stamattina mi ha chiamato, ma quando viene a Olbia, quando viene domani, vengo a Olbia, così vi porto un po' di ossigeno. Sì, signora Bob Lasigi, ce l'ho io, Bob. Quanto mi pare? 30, aspetta Jones, 30 kg di ossigeno, quindi a un certo punto, vabbè, non lo so quanto costa, comunque sia, ce l'ho a casa io. Ehi, dai, ci aggiorniamo domani, riprendi Fabio, io saluto tutti e scusate se sono entrato così a fare due chiacchiere con Antonello, ma doverosamente era mio dovere chiarire questa cosa, quindi chiedo scusa se non ho fatto girare. Fabio, a te il cambio, non so manco chi c'è. Buonanotte a tutti e saluto tutti. Aspetta due secondi, chiarimento. Allora, ora in poi, in pratica, se scende un canale rimane lì, se poi fai l'altro, non è che poi, già lo sai, come sembrava un broker, quindi a un certo punto, e poi mi splatteri, quindi rimane lì dove sei normale, su 15 secondo me, e su 15 anche Massimiliano, sì, va bene, giusto? Professa. Tranquillo, non ti preoccupare, io quando devo fare delle prove o ascoltare, a volte mi chiamano Antonello, passa sul 20 che devo fare e quindi facciamo le prove, passa lì e passa, capite? Non è che mi sposto io, a proposito, lo sai che il mio canale è canale 10, io non mi sposto da nessuna parte, non vado a fare questo da altre parti. Se però mi chiamano a fare delle prove o perché mi devo dire qualcosa, chiaramente chiedo scusa, sul canale 10 mi sposto, ma in quel contesto lì io non mi sono mai accorto che tu eri del 10, forse non è capitato, capito? Coincidenza che io non ti ho sentito, che tu eri nel 10 in QSO, oppure ti sei allontanato, oppure insomma qualcosa è successo e quindi mi sono spostato. Ma se ci sei tu nel 10, io come ho sempre fatto dico no, non mi posso spostare perché sennò splatterò ad Antonello e quindi mi rimango sul 10. Va bene, dai, accordo fatto, KK, ciao. Ok, se no già lo sai, quello che ti capita anche a te, quindi a un certo punto ti sposti tranquillo, fa quello che vuoi, non c'è problema. Basta che non lo sottolineare, perché io non capisco una fanculo quando tu ti sposti da qui all'altra parte, per dire da 10 al 20, per dire, adesso siamo sul 10, A un certo punto adesso mi sono, come posso dire, mi sono rifornito, diceva quello, quindi a un certo punto chi guardava morirà, diceva quello, a un certo punto, quindi adesso ne ho due, quindi tutti e due in parallelo sono a 1200 euro, cioè a 1204, pensate, no, 1200 euro, comunque sia, vabbè, facciamo così, sono contento per te, no? Claudio, ci tengo a quello che dici tu, va bene, non c'è problema, se no ti faccio fare quello che ti ha fatto fare Giannina, ma tale uguale in Napoli. Vabbè dai, è andata. Dai, doppio room, sei sveglio? Io sono sveglio, si stava ascoltando Antonello e a Claudio, che non poteva entrare a interromperli, si stavano riappacificando. No, ma cosa qui, i passaggi più ascoltati del 2020, capito? Ciuccucciu. Cosa che possono succedere, comunque anche a me stava splatterando, c'è una certa catenaria di due canali mi splatterava. E col Galaxy e non con l'apparecchio che prende i colpi. Poi vabbè, se mettevo l'RFI non lo sentivo più. Però un po' lo sentivo, non dico tanto, ma appena lo sentivo. No, te la dico tutta. Vabbè, io vedo il Galaxy con una fatica per prendere i colpi, per me è grandissimo dispiacere, non l'ho trovato così selettivo, mi dispiace, tant'è che l'ho mandato per questo motivo. Però è vero che io sono a Luna e Sole e lui a Carbonazzi, ma io con Extreme da 6 colpi, così come questo apparecchio è settato, che infatti rimane leggermente sordo, a posto per essere più selettivo, colpi non ne ho mai preso col 3006, nulla. Se poi aggiungi il fatto che ho un antennino appiccicato alla ringhiera, colpi proprio zero ne potevo prendere. Però Claudio, quando ha fatto delle prove un giorno con un apparecchio, sono dovuto andare da lui e dirgli: senti qua, mica non va bene sta cosa, perché io sento più un cavolo, eh. Lui mi ha detto: no, qua e là, eccetera, sto facendo una prova, è rimasto di 2 minuti a fare questo che stava facendo, poi ha staccato tutto e è venuto a parlare con noi. Ci è rimasto anche un po' male, perché forse non se l'aspettava, però l'apparecchio che stava usando sicuramente stava spuriando a manetta, lui non lo poteva sapere, però è uscito un sacco di mondezza per l'aria, la verità. Sì, magari, ma la spuria, una certa potenza ti viene, ma non anche spuria magari. Sì, capo, guarda, forse lo spuria non c'è dubbio, così come un altro apparecchio che stava provando qualche giorno prima, io gli ho sentito una spuriona sui 10 mega, qualcosa del genere, perché io stavo tarando un vecchio ricevitore portatile degli anni 70, senza antenna, e mi è arrivato, ma pulito, sentivo la voce pulita, guarda, già ti posso anche mandare il video, perché gli ho fatto il video. Fabio, quello non erano spurie, era la radio HF, avevi un kilowatt sopra, girato su di te con la direttiva, è normale che succeda, non sono spurie, io non ho baracchini che fanno spurie, sono tutte radio HF, come ti ha detto Gianni, quando amplifichi, e tu lo sai quanto è me o meglio di me, non lo so, ma a me mi hanno insegnato così, perlomeno. Così ho imparato, quando tu hai una radio del genere, che è una radio professionale al 100%, giri la direttiva e chi c'è in mezzo al passaggio della direttiva che è diretta, con un kilowatt sopra, non è spuria quella, quella è radiofrequenza, quelli sono colpi che stai prendendo, perché è talmente alta la potenza tra la direttiva che è sopra e il kilowatt che sta andando, come è capitato quel giorno lì, e quello è il problema. Però me l'hai detto, ti ricordi, me l'hai detto, io subito ho girato l'antenna dall'altra parte e ho spento l'amplificatore, ma può capitare, ma quello che è successo a Antonello per 3 giorni è una cosa che mi dispiace, perché erano prove che stavo facendo proprio con baracchini vintage e provando i vari linearetti che ho, tutto lì, quindi bastava solo avvisarmi e non sarebbe successo niente. Però il giorno che io ho attaccato, che ho inchiodato, ho incollato lì a Gavino lo smittere, attaccato a Gianni, quella era una prova proprio di forza per vedere sino a dove potevo arrivare e basta, ma l'ho fatta una volta e poi l'ho spenta, mi sembra, no? Non è successo altre volte. No, capo, infatti quando ti ho detto, oh, ma stai facendo polemica, mi avevi detto. No, non sto facendo polemica, forse non te l'aspettavi, la verità, non te l'aspettavi di aver disturbato, tu eri contento di quello che stavi facendo e poi quando hai staccato c'ero io a dirti guarda che hai sbatterato tutto, forse per questo. Sì, però, cioè, sempre lì siamo, non è che te lo devi tenere, capito, sta cosa che ti rimugina nello stomaco. La dici, c'è un problema, adesso avresti un problema con Gianni, io a Gianni glielo dico che è un coglione, così lui lo capisce e scopre di esserlo, giusto Gianni? Sì, io poi ho affrontato con te. Capito? Così, proprio così. Comunque, sicuramente una cosa su 9 mega ce l'avevi, è che non c'è il tuo numero che ti manderei il video, ma rimanessi a bocca aperta, perché siamo lontani, siamo lontani, non siamo vicini a 100 metri, siamo lontani, però mi ha fatto cantare un ricevitore in onde lunghe in stereo, capito? Ci mancava solo, guarda, credimi, che in questo radione che stavo riparando il meccanico lampeggiasse il LED stereo ed eri tutto a posto. Ne ho fatto di peggio, Fabio, non ti preoccupare. Ma sai quelle informazione che mi è stata data, mi è rifatta, è che era un periodo, no? Era già da forse Gianni si ricorda, poi chi è all'ascolto e vuole capire capisce, a me poco mi interessa. Io rimango sempre nelle mie e ripeto, ribadisco che Claudio Spalviero c'è sempre, c'è stato sempre, c'è sempre, ci sarà sempre. Con molta tranquillità adesso è tranquillo, sereno, però continuo a dire non svegliate il cane che dorme. Questa situazione mi è un po' arrivata da lontano, perché ogni tanto c'è qualcuno che pensa, solo perché è vicino, no? Solo perché si incrociano le antenne o perché sono a vista ottica, eccetera, di poter rompermi le palle. Tutto da lì è partito, Fabio, capisci? A livello scherzoso, e per carità, io non voglio provocare nessuno, nessuno mi deve provocare. Tutto da lì è partito. Perché un giorno mi sono rotto veramente le balle e ho detto, cazzo, ma vediamo se Claudio Spalviero veramente c'è. Ecco, in quel contesto lì, in quella giornata lì particolare, ho tirato fuori l'amplificatore grosso, l'ho messo in funzione, ho fatto degli accordi in altri canali con le direttive, eccetera, con la direttiva dei 10 metri monobanda tra elementi, e ho fatto quella prova lì per capire se veramente ancora c'era qualcosa da poter giocare, solo per quello, capite? Per far capire a qualcuno che nonostante siano vicini, ma possono essere anche attaccati, a me non me ne affutti manco ballanticamera, capite? Se a me uno mi rompe le balle, ho le caratteristiche, l'attrezzatura per poterle rompere le balle, tutto lì era, capite? Però mi è arrivato talmente questo messaggio che come mi è arrivato è subito sparito e non è un problema. Ho fatto una prova mia, a livello mio personale, Fabio, capito? Facendo anche il discorso che posso fare di peggio, perché quello è quello piccolo, l'amplificatore, c'è anche quello più grande di quello lì, capito? Sempre valvolari, perché io poi uso molto i transistorizzati, ne ho due dell'RM Italy che sono allo stato solido, mi vanno benissimo. Quelli valvolari lasciateli perdere, perché quelli possono fare veramente danno. Quindi torniamo ai vecchi tempi, veramente degli anni 90, quando cazzo venivano sotto casa a bucarmi le gomme della macchina, capito? Quindi lasciamo perdere quei giochi che non servono più a niente. In quel contesto lì è successo tutto, Fabio, perché qualcuno è convinto che, pur essendo vicino, qualcuno non ti possa dare fastidio, non ti possa schiacciare come un serpentino, capito? Tutto lì era il problema. Io mi sono fatto le mie prove, mi sono accorto che posso ancora essere vivo in radio e quindi basta, ho chiuso tutto e ho messo tutto a posto. Aspetta, scusami, adesso sono stato 3 giorni io, la verità, e c'è un accidente, la verità, io andavo su 10 e tu andavi su 20. Strano, non lo so, sarà o forse una coincidenza, quello che è, dimmi quello che vuoi tu. A un certo punto, comunque sia, non sentivo più nessuno, niente, stavo niente, non si voleva a parlare con il mio vicino di casa, figurati tu. A un certo punto, cosa ho fatto? Ho preso e mi sono localizzato, come se facevo una volta, ti ricordi? Il V2001, MK3, quello che è, se no un altro, e quello tassistorizzato, come mi sono fatto male, l'ho riparato a 100 punto, per 800 watt, quello di Mario Massa, e quindi a un certo punto ho detto, ah, se vuole la guerra, qual è il problema? A un certo punto facciamo come una volta. Cazzo, racconti che a un certo punto. Fatto la verità, a un certo punto. Io ho capito quello, la verità, sì, quanto non ti posso dire, Clau. Non volevo arrivare a quello, la verità. Però se ci dovesse arrivare. A un certo punto sono pronto, lo sai anche tu. Tu sei cosa posso fare io? Cambia tutto. Ma non me ne frega niente a me, cioè, come prima, c'è in guerra, eccetera, eccetera, con quelli di Alghero, te lo ricordi anche tu, già lo sai, quindi non me la fotti nuda. A me mi dispiace perché altro qua, mi dice per che cosa, a un certo punto. Però un baracchino mio, lo va a far culo. A un certo punto ho lo tutto, come ho fatto, come ho scritto su internet, e se la piglia in culo, non me la fotti nuda. Antone. No. Ma hai scritto anche su internet, cazzo di erba. Antone, stai proprio perdendo. Ma lascia perdere, ma cos'è, che linea è questo 2001? Ma cosa sono 800 watt, Antonè? E quale ricezione hai, Antonè? Lascia perdere, sono discorsi completamente diversi. Sono discorsi, o ci mettiamo la portante a vicenda e non parli né tu né io, allora un altro discorso. Ma se io sono in un altro canale, tu con 800 watt, sì, in un altro canale, io manco ti sento, Antonè, mentre tu sì a me. Sono due cose completamente diverse, te l'ho già spiegato. Non abbiamo la stessa attrezzatura. Non possiamo fare la guerra. Io e tu guerra non ne possiamo fare, perché siamo due persone completamente diverse. Abbiamo diverse attrezzature, diverse antenne, siamo completamente diversi, Antonè. Per me è 2001 rispetto a quello che ho, 800 watt. Cosa so? 800 watt ce l'ha ancora lo stato solido, quello che mi metto a giocare. Lascia perdere, dai. Ti ho detto che non è successo niente. Ma non continuare ad insistere con questa storia di fare la guerra con me, che non la puoi fare. Ma non solo tu, no. Nessuno a Sassari può fare la guerra con me, nessuno. Nel modo più assoluto, nessuno. Parlo dei CB, non dei radioamatori che poi si reputano CB quando ce la rompere i coglioni. Dei CB a Sassari non la può fare nessuno la guerra con me. Toglietelo dalla testa, tutti toglietelo dalla testa, capito? E non è una minaccia, non è una superiorità, non è una presunzione, non la potete fare nessuno. Quei lineari che avete sono giocattoli, le antenne che avete sono giocattoli, ok? Sono giocattoli, Antonè, lascia perdere. Non serve a niente parlare di queste cose. È successo, non succederà altre volte. Quando succede vuol dire ci metteremo d'accordo. Però sappi che io non ho problemi con nessuno. Te l'ho detto e te lo ribadisco e te lo continuo a ripetere. Lascia perdere il BV 2001, 2002, 2003. Che quelli sono giocattoli. Sono giocattoli. Cosa stavi dicendo, Fabio? Ehi, Clarco, io però una cosa te la devo dire, Nara. L'ho letto un paio di volte, eccetera. Tanto qua, di fronte sono io, eccetera. Io non lo metto in dubbio, per carità. Tu stai parlando con uno che c'ha l'antennino sul terrazzino, che esce con un baracchino che ho visto in asta, uno se l'ha comprato a 80 euro, Perciò non è che ho fatto un affare, perché io manco 400 la vera. Comunque, il discorso è che ci sono i bastardi, sono gli stronzi in giro qua. Cioè, l'atteggiamento, che deve essere una critica costruttiva, e per carità, non te la prendere come offesa, perché io penso che le offese non debbano esistere in questo mondo, perciò non ho intenzione di offendere nessuno, e tantomeno di entrare in critica amara, capito? Quando dici così, però siccome tu lo sai che le cose come una freccia corre veloce, scocca di bocca in bocca, diceva De Andreni, quello stronzo che se la prende male, insomma io lo vedo come una possibilità di attirarsi, non dico antipatie, ma di bastardi, di stronzi nel mondo qua. Mi stai capendo il discorso? Un discorso tranquillo, davanti a un bicchiere di vino. No, Fabio, nel modo più assoluto. Intanto io non ho mai detto, non ho mai sentito a me dire io sono il più forte di tutti. Io da quando sono arrivato qua, da quando nel 1987 mi hanno cambiato il nominativo ICB, ICB che oggi qualcuno si è anche ritirato, mi hanno messo torre di controllo, ma per il semplice fatto che sono talmente in alto e talmente ricevo tutto nord, centro e sud di Sardegna che sembra appunto la torre di controllo dell'aeroporto, solo per quello. A me non è mai sentito giocare nel periodo di cui siamo rientrati in radio, giocare a dire ti crepo, ti passo, perché la cosa che mi dà più fastidio è quando si mettono a sovramodulare e quando uno parla sopra l'altro, e su questo non ci piove, nel modo più assoluto. Terza cosa, io non ho mai fatto prove con nessuno, assolutamente, non ho mai fatto vedere le mie capacità a nessuno e non mi sono mai vantato di essere il numero uno a Sassari, assolutamente. In certi contesti, te lo ripeto, ribadisco come ti ho detto prima, qualcuno, siccome sono vicini, ogni tanto si mettono a fare gli stupidi e a sovramodulare, ed è una cosa che a me mi gira molto i coglioni, visto che non siamo in fascia protetta, capito? E tante volte l'ho detto, fate da bravi, non sovramodulate solo perché siete vicino, perché sovramodulare quando una persona è attaccata all'altro, o è a un tiro di schioppo, o è a vista ottica, è troppo facile. Il bello è quando entra uno da fuori e l'unico che sente sono sempre io. Questo è il risultato, Fabio. Ma non perché io sono il numero uno, perché purtroppo la posizione, come è capitato, che stavamo parlando nel canale 10, ho sentito un break normale, quindi ho bloccato il QSO immediatamente, perché quando uno brecca devi farlo entrare. Sembrava un break come può essere da Alghero, da Porto Torres, da Sassari, perché arrivava a Santiago Nofre. Nessuno lo sentiva ed era un vecchio d'Oristano, capito? Quindi questa è la realtà dei fatti, non è che lo dico io, lo dice la realtà dei fatti, solo per quello, ma non perché io mi sia mai vantato. Il risultato è quello che conta. Io sento, gli altri non sentono, è lì il problema. O io sento meglio degli altri, per meglio dire, perché anche gli altri sentono, ma mai a me mi hai sentito fare discorsi del genere. È che a volte ci sono delle provocazioni, questo sì, e a me girano molto i coglioni, e allora quando a me mi provocano, cazzo, se tu a una persona le esprimi le balle, ti si gira, perché le fanno male, e così faccio io, quindi a me basta lasciarmi tranquillo e sereno, e io non rompo le palle a nessuno, è lì il discorso. Sì, kappa, sì, l'ha detto scherzando, qualche volta, il tono era quello scherzoso, però il significato poteva essere capito, interpretato in vari modi. C'è chi dice, scherzando, che burlone, c'è chi dice, questo qua è un stronzo, gliela faccio vedere io. Poi, siccome è pieno di meschini, non è solo questione di radio, capito? Poi alla fine non è che si compra un lineare, poi alla fine non è che ti punta la lanterna, alla fine non è che ti mettono un portante. Purtroppo sono troppo meschini qua, sono troppo meschini. Qualche volta, quando hai scherzato, io mi sono accorto che capita anche a me nella vita in verticale con le persone di dire una cosa e nel momento in cui ho finito di dirla magari c'era il doppio senso, per dire, capito, in qualche maniera, però qualche volta quando hai scherzato io l'ho pensato, se lo sento a fronte questo dice ma questo qua, ma dove abita? Mi sta capendo? Cioè, un po' di malizia in più qua. A volte un po' di malizia in più non fa male. Quanti anni hai, Fabio? Me ne contano 45, qua. Io ne faccio 61, sono un po' più grande di te. Sono entrato in radio nel 1975, non ho mai mollato, mi sono preso la patente radioamatore per la detenzione e l'uso delle radio, ma soprattutto per la detenzione. Ti posso garantire una cosa, che dal 1975 al 2020 a me non mi ha mai cercato nessuno personalmente, perché non sono molto facile, stai attento, non sono molto facile, quindi c'è stato anche quel rispetto reciproco. Però sappi una cosa, perché come dici tu ci sono molti infami, tantissimi infami, che a me non hanno mai affrontato personalmente, però andavano ai QRL delle persone a farmi a pezzi, parlavano tra loro a farmi a pezzi e a me mi riferivano tutto, perché sai qual è il problema, Fabio? Te lo dico con molta sincerità ancora oggi, che c'è un diciu, no, che si dice a Sassari, guarda con chi vai che ti dirò chi sei. A volte quando tu stai parlando con una persona e stai parlando male di un altro, tu non sai che quella persona a me mi può conoscere, perché io abito a Sassari dal 1983 e mi conoscono cani e porci, tutti sanno chi è Claudio Marti, lo sai tu, tutti lo sanno per il lavoro che ho fatto, che faccio, per come mi comporto con le persone, perché io sono molto molto generoso, io mi faccio a pezzi per le persone, anche a volte non meritando la persona stessa. Però mai nessuno è venuto a dirmi in faccia determinate cose. E' gente che ancora oggi parla con me in radio, attenzione, e che ho sempre lasciato perdere. Perché se dovessi aprire la Bibbia per tutte queste persone che mi hanno calpestato, messo il piede sopra, alle spalle, non davanti, perché davanti non è molto facile, ti ripeto, ma non perché sono presuntuoso, perché c'è un brutto carattere, molto molto brutto, molto molto brutto, purtroppo non temo nessuno, e quindi è così. Poi, sanno dove abito, mai nessuno è venuto a suonare il campo e dire scendi che ti devo parlare, o scendi che ti devo prendere calci in culo, perché non l'hanno mai fatto, non lo so. Fatti una domanda e darti una risposta, forse non lo so, non lo so, però c'è il però, che se qualcuno fosse veramente umile nel parlare in faccia come parlo io, perché io parlo in faccia e non temo nessuno, se devo dire coglione in radio te lo dico, e se ti devo dire ci vediamo lì perché te lo voglio dire in faccia coglione, vengo e te lo dico, non ne ho problemi, ancora oggi l'ho fatto prima e continuo a farlo anche adesso non è mai capitato, ma se dovesse capitare sono capace di farlo anche adesso. Questo è il risultato, capito? Come hai detto tu, ci sono molti infami che fanno queste cose, e io non sono quello, io ti affronto di persona, in radio, dove, quando, come, non ne ho problemi, capito? Se tutti fossero così leali e sinceri, invece di andare a fare a pezzi la gente a casa di uno, a casa dell'altro, a trovarsi e parlare male, o andare addirittura dove uno sta lavorando a dire a me le cose me le hanno sempre dette, anche da poco, capito? Uno dice una cosa, proprio un, sai, come si dice, te ne do una mano e te ne prendi un braccio, uno dice una cosettina, cazzo, invece di dirla giusta come te l'ho detto io, tu la giri e metti quella persona contro. È successo anche da poco, capito? Con persone che parlano con me, che parlano in radio, non voglio fare nomi perché non sono così meschino. Mi ho guardato un film stasera, Vivi e lascia vivere, capito? E così sono diventato io, da un po' di tempo a questa parte. Però quel lì, Vivi e lascia vivere, vorrei che continuasse, perché se io lascio vivere e tu non mi lasci vivere, allora i discorsi cambiano, Fabio, Allora si torna come era Antonello ai vecchi tempi. E se io, ma ti ripeto, ribadisco per tutti quelli che stanno ascoltando, non è una presunzione, ma è la realtà, capito? Se io dovessi cambiare come ero nei vecchi anni, allora è pur certo che Sassari diventerebbe una guerra come era prima, una guerra totale. Ma siccome non si può più fare una cosa del genere, perché siamo diventati grandi, allora lasciamo le cose come stanno, viviamo tutti sereni e tranquilli, che nessuno è nessuno e nessuno è più grande di nessuno, non so se rendo l'idea. Capo, capo, è che quando sei arrabbiato per questi, scusate, problemi che, insomma, queste persone che si sono occupate in una certa maniera, ha preso conto Antonello, ha capito male, forse si è convinto che tu magari te l'avessi presa con lui, forse, così mi sembra che sia stato, però vabbè, da questa cosa mi sa che se ne è parlato anche troppo, l'importante è averla risolta, poi tu mi dici, ne ho 61 anni, ho passato. Li ho visto e di là li ho fatto più di te, è vero, ci ho già litigato, mi sono già arrabbiato, mi sono già comprato il lineare quando ho cercato le persone, eccetera, mi hanno cercato, io dicendo. Hai ragione, però non lo so, mi sono sentito un po' di, non dico di allertati, è che non c'ho il tuo numero, non ci siamo visti nel frattempo, ma neanche, non te l'avevo neanche detto in radio forse, capito? Però che Santanello il tuo numero, lui gli ha tolto il telefono e col cavolo che c'è il tuo numero. Adesso già il mio numero ce l'hanno per di persone, io il loro, è capace che me lo faccio anche dare, il tuo ti mando un messaggio, così semmai abbiamo la possibilità nel caso di faccio una bassa. I tempi sono cambiati, cra, i tempi sono cambiati. Sì, hai ragione, si può fare guerra tipo anni 90, però la gente è meschina, non ne vale la pena, capito? Secondo me non ne vale la pena magari infangare o infangarsi per entrare in... è come vedere lavandaie che litiga un fiume, capito? Stessa cosa. Non è il caso, cioè possiamo andare più in alto, io sto avendo dei QSO molto carini, molto belli, anche fino a tardi, con gente di tutta l'età, perché c'è Bracco che ha 83 anni, c'è Riccardino che ne ha 14, cioè una figata questa, tutta una figata. È una cosa bella, tranquilla, che io mi auguro che continui così. La radio mi è mancata molto in questi ultimi 20 anni, adesso l'ho ritrovata così e mi ha dato voglia di mettere di nuovo sull'antenna, di prendere un altro apparato, insomma, entusiasmo. E se tu hai queste radio e ne hai tante, sai cosa vuol dire avere entusiasmo, è una cosa proprio bella, ce l'avrai sicuramente anche tu. Perciò niente, una mano davanti e una dietro, però amici tutti, è chiaro, no? Ah, senza un bel dubbio Fabio, ma ci mancherebbe altro, ti ripeto, io sono stato 5-6 mesi che proprio non avevo nessuna voglia di ripristinare, di fare. Ho visto che le persone che c'erano sono persone tranquille, serene, quindi mi sono rimesso così a chiacchierare e a fare, ma non ho nessuna voglia più di tornare ai vecchi tempi. Ecco perché ti ripeto, non penso che ci sia nessun astio con nessuno, perché siamo tutte persone grandi, tutte persone che chiacchieriamo, scherziamo, chiaramente ci sono dei dibattiti, dei diverbi, delle cose che appunto a uno vanno bene e a uno no, ma cose più che normali, si parla di radio, si parla di antenne, si parla di... non si parla di altro, ecco tutto lì, quindi ti ripeto, ribadisco da parte mia, io non ho attio con nessuno, se poi qualcuno ce l'ha con me, come ce l'ha sempre avuto, perché forse qualcuno è geloso che Claudio abbia più radio di Giovanni o che Claudio abbia più antenne di Peppino, questo è il significato del discorso, ma io non ci penso neanche minimamente. Io a casa mia penso di avermi messo le radio con tanto sacrificio, con tanto lavoro e sudore della fronte, tantissimo, non mi ha mai regalato niente nessuno, ho lavorato una vita ed è l'unico hobby che io ho è questo, da quando avevo 14 anni, l'ho portato avanti con molta serietà, con molta serietà, capito? Cercando di fare di tutto e di più per poter avere sempre il massimo di quello che è la mia passione, quindi uscire bene, farmi sentire da tutte le parti, ma avere anche rispetto degli altri che escono più bassi di me o che hanno meno cose di me. Io non ho mai avuto, non sono mai stato geloso di nessuno, qualcuno forse sì, però ecco perché si arriva sempre a questi discorsi, Fabio, purtroppo la realtà è questa. Perciò a buon intenditore poche parole, io faccio il mio gioco, gli altri facciano il suo, io sono a casa mia, gli altri stiano a casa sua, con i piedi per terra però, senza sollevare molto i piedi, perché io i piedi non li sto sollevando, sto solo cercando di difendermi da chi mi attacca, se mi attacchi io ti attacco, se invece tu non mi attacchi io sto tranquillo e sereno. Siccome ti ripeto e ribadisco, è da un po' di tempo a questa parte che continuo a sentire queste stronzate, no? Di quello lì, di quello e di quell'altro. Allora io il giorno ho fatto quella prova per vedere se ero vivo. Mi sono accorto che ancora, grazie a Dio, sono vivo ed è finita lì. Chiuso, Fabio, per me non esiste più quel discorso. A meno che qualcuno non si permetta di svegliare il cane che è sempre addormentato anche adesso dentro l'armadio. E allora cazzo, Ligoi piega ribiglia, ribiglia, Fabio, cosa vuoi ti dica? Io purtroppo non so cosa dirti. Basta comportarsi in una certa maniera e farsi cazzi suoi qualche volta e allora tutto funziona bene. E scappa. Sì, no, ma guarda, tranquillo, io sono accorto che sei vivo, cioè io già me ne sono accorto, me ne sono accorto anche da prima, il mio apparecchio se ne è accorto un po' di più, perché praticamente tu mi sei comodo quando sei in radio, quando stai parlando, quando devo tarare lo smitter, capito? Perché quando arrivo a fondo scala muovo un pochino il trimmer e non devo tornare indietro, perché tanto anche se torno indietro la lancetta non torna indietro, il trimmer non mi può giocare nulla. Ma se ne è accorto la pari che mi sei vivo, è tranquillo. Vabbè, cosa vuoi ti dica? Possiamo stare sino a domani mattina parlando la stessa cosa. Vi volevo coricare, ma mi ha fatto piacere approfondire questo discorso. Non ho grossi problemi per alzarmi la mattina, però ti ripeto che molte persone hanno fatto veramente l'infame con me, molte persone, e ti ripeto, ribadisco ancora una volta che sono persone che continuano oggi a parlare sul canale 10 solo perché lo voglio io. Attenzione, solo perché lo voglio io, perché altrimenti io me ne sarei andato a parlare da un'altra parte, capito? Quindi lasciando, mettendomi tutto alle spalle, però attenzione, perché quando poi dalle spalle il sacco è pieno e ne cade per terra, allora diventa triste, diventa molto triste. Io ho sopportato tanto negli anni passati, poi le cose sono cambiate, adesso sta riniziando nuovamente e alcune cose sono successe da poco, per chi sta ascoltando, c'è di mezzo anche qualcuno che sta ascoltando, sono successe da poco, capito? Da poco, parlo nel 2019, che sono state dette delle cose contro di me che invece erano assolutamente non vere, capito? Solo per mettere le persone contro, e questo a me dispiace che succedano, e ho lasciato perdere di nuovo perché me l'hanno riferito, capito? Di nuovo, va bene, non ti preoccupare, ma cazzo, va via a pagare, non devo far pagare niente a nessuno, tranquillo, non me ne frega niente, lasciamo perdere, andiamo avanti, capito? Però attenzione, perché se queste cose continuano, poi io perdo le staffe. E chi mi conosce sa che quando perdo le staffe io divento molto, ma molto pericoloso, senza minacciare per nessuno, per carità sto parlando. Quindi non voglio arrivare né fisicamente, né moralmente, né tecnicamente, parlando in radio, rompere le palle alla gente. Voglio stare tranquillo e sereno, perché più sereno di me in questo periodo non ce n'è. C'ho, grazie a Dio, sono in pensione, grazie a Dio la mia famiglia è la numero uno. Grazie a Dio non mi manca niente, nel modo più assoluto, sto benissimo, quindi perché devo farmi sangue cattivo per la radio? La radio è un hobby, e come hobby va trattato. Se qualcuno ha qualcosa da dire, come dico, una striscia la notizia, io sono qua, sempre presente, per chiunque, che sia piccolo, grande, grosso, nano, handicappato, in sedia a carrozzelle, io sono sempre pronto a avere dialogo. Mi gira i coglioni quando mi parla la gente alle spalle da carogna. Allora io quelle cose non le sopporto, Fabio, capito? Te lo dico come fratello, pane pane fino al vino. Sono cose che non sopporto, ma neanche dai miei familiari, da nessuno. Se tu hai qualcosa da dire, sei un uomo grande, vieni e me lo dici in faccia. Io, se ho sbagliato, ti chiedo scusa, perché è giusto che sia così, da persona educata, se non ho sbagliato sei tu che devi chiedere scusa e ti devi vergognare di aver fatto cose che non sono assolutamente vere. Questo è il mio punto di vista, chi vuole capire capisce, e penso che ce ne sia tanta gente all'ascolto, che di garogni ve ne un bel all'ascolto soprattutto, e che poi si permettono di venire a chiamarmi o per fare darle una mano, per chiedere consiglio, perché le serve quello, perché le serve quell'altro. Capito, Fabio, cos'è che mi gira le balle? e da un po' di tempo a questa parte sta succedendo, stanno succedendo queste cose. Non è piacevole, anche a me piacciono le voci alle spalle, tanto, cioè, tanto poi alla fine, alla fine me la vengono a dire, ma io le vengo a scoprire le cose, penso anche tu, ma penso capiti più o meno a tutti, tranne magari a qualcuno qualche volta. Se per caso, anche perché io non sono uno di quelli che va a dire per dire, ma Claudio Sparviero l'avete visto? Cosa stava dicendo? Ah, ha parlato di me. No, io arrivo alle persone a dirmi, ecco, ho sentito un discorso e mi è sembrato di sentire il tuo nome, capito? Cioè, le cose poi alla fine si vengono a scoprire, alla fine gira che ti gira, la voce gira, un caso, una cosa, e alla fine ti arriva all'orecchio. Perciò è inutile girarci intorno e fare le cose di nascosto. Poi adesso, tra Facebook e la possibilità di contattarsi rapidamente, personalmente col telefonino, e WhatsApp, e magari tu stai parlando e qualcuno sta registrando, capito? Cioè, alla fine la cosa viene fuori, e in questi tempi viene fuori ancora prima. Perciò siamo lì. Io sono sicuro che ci sono moltissime persone all'ascolto, e anche se il messaggio dalle tue parole, che mi sembra anche che c'hai un Santiago forte un po' in giro, no? Non è arrivato alle orecchie giuste, io penso che o è arrivato un messaggio, oppure domani qualcuno sentirà qualcosa. Vanne certo, perché poi alla fine le voci girano, siamo sempre lì. È giusto che girino, almeno qualcuno capisce che non siamo stupidi, capito? O non sono stupido, per meglio dire. Qualcuno lo capisce, meglio che lo capisca. Mi ha fatto piacere che qualcuno, io stavo guardando la televisione, attenzione, mi è arrivato un messaggio, mi hanno detto accendi la radio che stanno parlando di te. Quindi vedi bene che c'è sempre qualcuno che tiene ancora conto a Claudio, come è capitato in certi discorsi, no? In certi raduni, qualcuno appunto ha fatto il mio nome, non offendendo ma non dicendo cose belle, senza sapere che in quella comunella c'era gente che a me ci tiene tantissimo, pure non sapendolo chi stava parlando, e subito, anzi lo attizzava, no? Cosa faccio? Dopo, al termine del discorso, mi ha telefonato e mi ha ripetuto tutto quello che è stato detto in questa comunella. Quindi bisogna stare molto attenti, ti ripeto. Fidarsi bene, ma non fidarsi meglio, perché c'è sempre qualcuno che riferisce. Come è già successo, ti ricordo, come ti ho detto poco fa, non molto tempo fa, e ho lasciato perdere, e va bene. Quindi, dal discorso di Antonello siamo andati al discorso personale. Io personalmente non c'ho niente con nessuno, però ripeto, ribadisco, se avete qualcosa da dirmi, ditelo a me personalmente, invece di andare a riferirlo, perché dal momento in cui tu stai messaggiando con Fabio, a Fabio gli arriva un messaggio contro di me, e poi Fabio me lo gira, non è bello Fabio, capito? Dico Fabio per dire Giovanni, Peppino, Antonio, Filippo, capito? Non è bello, e non è la prima volta che me l'hanno fatto, che mi hanno girato messaggi o scritti o in audio di gente che stava parlando di me. Quindi stiamo molto attenti, ok? Vabbè, quindi si sarà addormentato, ma qualche messaggio ti è arrivato Gianni all'orecchio. Gianni si è addormentato. Chi taccia consente, dice quello. E capa, vabbè, la storia è lunga. Comunque qua, anni fa, guarda che andavo a scuola, lunedì mattina scappavo da scuola, d'accordo con i professori tra l'altro, perché eravamo tutti molto amici, questa per darti l'idea del rapporto che riesco ad avere con le persone. E il lunedì mattina Zeno Piso in via Oriani prendeva fuori dischi nuovi. Perché lo faceva il lunedì mattina? Perché i DJ di solito facevano le ore piccole nel weekend e mattina lì, perciò si è andato bene, prendeva i dischi e io entravo a scuola, davo la abbassa. Ora prendo siberiani, mi facevo la fila di un paio di persone e trovavo i dischi nuovi, perché sennò Zeno ne portava poche copie e arrivano magari i pezzi che ti facevano saltare nella pista, capito? Un giorno sento parlare, mentre ero in fila girato e guardavo i dischi sul raccoglitore, dischi anni 70, roba vecchia, sento questi due che stavano parlando al bancone, e questo qua mi stava facendo a pezzi, io ero lì, questo mi ha guardato in faccia, non mi conosceva neanche, non mi conosceva, cioè non mi conosceva di persona. A un certo punto mi sono avvicinato e mi sono messo a farmi a pezzi io, ho detto, ah sì, quello lo conosco, un coglione, tutti ridendo, un coglione, comunque piacere, non ci conosciamo, dice, no, piacere, io mi chiamo Michael Style, piacere, mi chiamo Fabio Cossiga. Ho preso il telefono a banana, mentre io ce l'avevo in tasca nascosto perché mi dava fastidio farlo vedere. Ha preso il telefono a banana che c'aveva un vecchio Philips, scusate, c'è un appuntamento, è uscito. Adesso gli vedo un bel niente così, cioè, non c'era meravigliarsi qua, non c'era meravigliarsi. Fabio! Antonio, mi di sopra? No, ti ha chiamato, vado. Ascolta. Guarda che... scaricate tutto. Scarica che cosa? Scaricati tutto. Scaricati tutto? No. Non ho capito come. Cosa mi devo scaricare? Mi devo fare una bassa che non ho capito. Non lo so, comunque scaricati. Guarda tu. Tu ma cazzo, ma cosa adesso si rendi? Non ho capito, aspetta. Affannato, sì. Antonello. Ui. Fabio, mi è successo a me al pranzo di Borole una cosa del genere. Al pranzo di Borole, seduto a tavola con una ventina di persone. Non mi sono presentato con nessuno. Mi sono seduto a tavola. Il primo dibattito che c'è stato, sai qual è? Maghilt Volte di Sassari, che è uno della zona di Oristano, no? Parlando in campidanese. Ma questo forte di Sassari, che arriva anche qua a Oristano, chi è? Ma che si crede essere? Bim bum bam, iniziato. Io mangiando stavo, e ho continuato a mangiare. Alla fine, quando mi sono veramente girato i coglioni, ho messo le mani sopra il tavolo, mi sono alzato il dito e ho detto, ma tu... lo conosci quello che stai parlando? No, è il testo, è Sumere, sono io. Quando devi parlare di una persona, informati se è presente o assente. Coglione che non sei altro. L'hai detto, Gino, cazzo, la manca, te la culo a pittorra. Sono io, Claudio Spalmiero, cosa cazzo vuoi, l'hai detto. Proprio così. Lì si è avvicinato Gigi Vulcano e subito abbiamo messo a tacere le cose. Capito? Ma può succedere secondo te una cosa del genere? A me è successa. Pensa tu cosa riescono a... cioè, sono così impavidi nel loro denigrare, perché poi alla fine sono dei denigratori. Cioè, ti posso garantire che non ho fatto lo sgambetto mai a nessuno, capito? Sono arrivato lì in alto, e mi sono sempre guardato gli altri, addirittura pronto magari ad allungare la mano per chi non ce la faceva, e sarebbe arrivato secondo comunque. Io non ho mai fatto lo scambetto a nessuno qua. Invece qui la gente vuole diventare, vuole scalare la classifica, capito? Vuole arrivare prima, sgomitando i patrimoni, facendo sgambetti, eccetera, perché si credono furbi, si credono che sai che cosa. Adesso tu, pensaci un attimino, no? Tu sei forte, in radio, perché arrivi da tutto e senti dappertutto, ma la gente è convinta che con un pezzo di fil di ferro e un pezzo di plastica in mano sia le persone migliori del mondo. Non ho capito come devono invidiare, mi stai capendo? Hai capito qual è il concetto? Non riesco a... non è nelle mie corde pensare che io posso invidiarti, per dire, posso provare invidia per te in qualche maniera, gelosia, perché tu hai un'antenna sul tetto che è migliore della mia e perché c'hai un apparecchio particolare e quando parli non ti sentono a 50 km, ti sentono a 100. Vabbè, claro, vorrei dire che io, perché se parlo con la persona, userò il telefonino, userò il telefono, ci andrò di persona, prendo il motorino e ci vado, capito? Cioè, non è questo il problema. Se ha una posizione migliore della mia, un apparecchio migliore del mio,